soldi e dintorni. Ecco, ci siamo con Deborah Rosciani. Buongiorno. Ciao Alessandro, buongiorno a tutti quanti. Oggi il quotidiano nazionale metteva questa foto in prima pagina di una bambina da Haiti col titolo Aiutiamoli, no? Questo è il tema di cui ci occupiamo oggi. Infatti, tanto per cominciare, quello che possiamo dire è che magari chi avesse intenzione di fare una donazione per supportare tutte le organizzazioni che stanno mettendo in campo aiuti in questo momento può sicuramente prendersi un giornale questa mattina. Indicazioni di questo tipo ne troviamo ovunque. Noi cerchiamo un po' di fare anche un'azione coordinate in questo senso perché come sapete gli italiani sono sempre pronti a garantire, ad esprimere la loro solidarietà, ma qualche volta qualcuno anche ha qualche dubbio perché dice chissà davvero se il mio denaro giunge a destinazione. Allora noi questa mattina che cosa abbiamo fatto? Cogliendo anche quello che stanno facendo in questi giorni tutti i mezzi di comunicazione che stanno lanciando campagne di solidarietà per la raccolta delle donazioni via cellulare, attraverso bonifico bancario, con la carta di credito, andando direttamente sui siti delle organizzazioni di sostegno e solidarietà, abbiamo cercato di interpellare questa mattina alcuni dei canali istituzionali più importanti che ci raccontano come si stanno muovendo, appunto, e come utilizzano eventualmente il denaro frutto delle donazioni. Allora, intanto abbiamo disturbato, lo sentirete un po' come dire, con una telefonata un po' particolare perché è all'estero, il commissario straordinario della Croce Rossa Italiana Francesco Rocca. Commissario, buongiorno. Comincio subito con lei perché naturalmente è forse l'ente più conosciuto, questo in termini appunto di organizzazioni, di sostegno e di aiuto, proprio soprattutto in termini sanitari, durante queste tragedie che purtroppo si verificano anche fin troppo spesso. Ne ricordiamo anche quanto vi abbiamo disturbato per sapere cosa stavate facendo quasi un anno fa, quando si è consumata la tragedia nel nostro paese del terremoto in Abruzzo. Lei ha detto qualche giorno fa, nelle ultime ore, siamo pronti a dare il massimo supporto alla nostra consorella di Haiti e proprio per questo abbiamo dato la nostra disponibilità immediata all'invio di mezzi e uomini della Croce Rossa Italiana. Già partita la vostra squadra di soccorso, commissario? È partita, di Croce Rossa Italiana in questo momento è presente una persona con il team avanzato che è atterrato ieri della protezione civile. Nel frattempo noi abbiamo un sistema di organizzazione un po' particolare, come lei ha ricordato bene, noi abbiamo una consorella, noi ci muoviamo sul territorio nell'ambito di un sistema di relazioni, per cui diamo in base a quello che ci viene chiesto dalle nostre consorelle e dal sistema della Federazione Internazionale di Croce Rossa, perché riteniamo che questo sia il modo più corretto per portare aiuti che servono e non intasare il paese con cose che non servono. Quindi teoricamente il migliore interprete secondo noi è la Croce Rossa o la Mezzaluna locale. Certo, quindi teoricamente dall'Italia di che cosa ci potrebbe essere bisogno da parte vostra, da parte della Croce Rossa Italiana? Ma noi le valutazioni che sono state fatte e che ci sono state insomma anche fornite dai nostri colleghi sono sicuramente in questo momento un sostegno per quello che riguarda la parte sanitaria, ma anche la parte del cibo e acqua e ovviamente alloggi. Tenete presente che insomma, parliamo di centinaia di migliaia di persone che hanno perso tutto e dovranno essere alloggiate e sfamate nei prossimi giorni. Esatto, peraltro lo ribadiamo ancora, questo è un aspetto che è già piuttosto evidente, è un'area quella che presenta una situazione molto complicata rispetto alla normalità perché è molto più difficile da raggiungere, figuriamoci che cosa può accadere in un frangente di questo tipo. Volevo ricordare, commissario, quali sono i canali per raccogliere fondi da destinare alla Croce Rossa. Intanto c'è la possibilità di inviare un SMS al 48540 per donare 2 euro da numero WIND e 3, oppure c'è il numero verde l'800 166 666. Si può fare anche una donazione online causale Pro Emergenza Haiti andando sul sito della Croce Rossa Italiana. Si può fare anche un bonifico bancario con la causale Pro Emergenza Haiti, peraltro la banca d'appoggio della Croce Rossa e la Banca Nazionale del Lavoro, filiale di Roma. Adesso io non riesco ovviamente a dire tutto l'IBAN, il codice appunto per fare il versamento perché è lunghissimo, ma sicuramente sul sito della Croce Rossa si trova ovunque. La Croce Rossa ha anche un conto corrente postale, andate sul sito della Croce Rossa Italiana per l'appunto. Commissario Rocca, siccome ho altre due organizzazioni, mi chiedevo se con lei avessimo dato tutte le informazioni che vanno date in questo momento, se possiamo tornare magari a disturbarla anche nei prossimi giorni. Vuole dare un appello agli italiani, lanciare un appello alle famiglie italiane che volessero aiutarvi? Sì, assolutamente, quello di essere generosi, di donare, veramente c'è bisogno di aiuto, è una tragedia immane quella che ci troviamo davanti. Io dico sempre quando mi viene chiesto, l'importante ovviamente, noi, io rappresento la Croce Rossa e ovviamente chiedo di dare fiducia alla Croce Rossa, ma l'importante è donare ciascuno secondo la sua sensibilità, secondo l'organizzazione che ritiene più vicina, però l'importante è che in questo momento si sia presenti, perché veramente questa gente ha bisogno di aiuto. Commissario, grazie, buona giornata, a presto. Grazie a voi. Buon lavoro. Vado adesso da Mirta Canzonieri, responsabile comunicazione e raccolta fondi del CEVSI, in rappresentanza del Comitato Emergenza di Agire. Agire è l'agenzia italiana risposta emergenze. Canzonieri, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a voi. Tra l'altro dico subito una cosa, che anche utilizzando il vostro canale è possibile inviare 2 euro attraverso un SMS ad un numero che è molto simile a quello della Croce Rossa, è diverso solamente per un numero finale, è il 48541, e poi diamo anche le altre indicazioni, gli altri canali per potervi supportare. Voi come state, supportando l'emergenza haitiana attraverso il vostro canale, attraverso la vostra organizzazione, Canzonieri? Agire che cos'è? Allora, Agire, come ha detto lei correttamente, il Comitato Italiano di Risposta alle Emergenze riunisce più organizzazioni, associazioni private che si occupano di solidarietà internazionale. Oltre la metà di quelle che partecipano al network è attualmente presente nel paese, presente ad Haiti, in particolare il CESI, che è l'organizzazione che io rappresento oggi, era già presente ed è presente con un progetto di sicurezza alimentare. Come avete correttamente ricordato, Haiti è il paese più povero del continente americano, quindi è un paese che già si trovava in condizioni di gravissimo disagio, soprattutto in termini di mancanza di sicurezza alimentare. Quindi le organizzazioni erano già presenti, come tutte le organizzazioni presenti ci stiamo coordinando con gli altri aiuti internazionali per stabilire velocissimamente quali siano le prime necessità. Sono state già citate, sono quelle corrette, sono le necessità di avere accesso all'acqua, accesso al cibo, ripari temporanei. La maggior parte del paese, in particolare la capitale Port-au-Prince, non ha ripari stabili in questo momento, perché gran parte degli edifici sono crollati, per cui in questo momento stiamo coordinandoci con gli altri aiuti internazionali per garantire i primissimi soccorsi. Io ho ricevuto questa notte intorno all'1 l'ultimo messaggio da parte della nostra persona, che ci ha confermato di essere arrivato a Port-au-Prince, di avere preso contatto con gli altri, di essere già operativo, e come noi tutte le altre organizzazioni che per Agire sono presenti sul territorio haitiano in questo momento. Ecco, quindi lo ribadiamo, è una onlus di coordinamento fra alcune delle più autorevoli organizzazioni non governative italiane, ne ricordo anche qualcun'altra. Il CEVSI lo ricordava appunto Mirta Canzonieri, perché è la responsabile comunicazione esattamente di questa organizzazione, ma ci sono anche Save the Children e ce ne sono ActionAid, Copi, ecco. GVC. Quindi esatto. Tanto per capire, Canzonieri, le vostre risorse, quelle che raccogliete proprio magari attraverso questa solidarietà che parte subito da parte degli italiani, che sono molto sensibili su queste tragedie, come poi vengono indirizzate in modo proporzionale alle organizzazioni che coordinate sul territorio? Esattamente, l'obiettivo è proprio quello di fare una comunicazione congiunta, tra l'altro una comunicazione, quella del network, ed è un'attività, quella del network, che avviene in stretto coordinamento con la Farnesina, con il Ministero degli Affari Esteri. Vengono raccolti i fondi e l'obiettivo è proprio quello di coordinarsi nella comunicazione e garantire che i fondi vengano utilizzati da organizzazioni che tra l'altro condividono dei criteri di rendicontazione e di utilizzo dei fondi molto stretti, certo, di trasparenza. Molto stringente. Io parlo del CESVI perché ovviamente è quello che rappresento, ma questo vale per tutti gli altri, perché uno dei criteri di ammissione, noi siamo stati la prima organizzazione ad essere premiata con l'Oscar di bilancio per la trasparenza. Benissimo. Che vuol dire che i quattrini che arrivano all'organizzazione vengono in maniera molto trasparente e molto chiara. Ricordo direttamente, certo, rapidamente come si può supportarvi. Allora, inviando 2 euro con un SMS al 48541 da cellulare, esatto, in questo caso Timo Vodafone, chiamando lo stesso numero da rete fissa, con carta di credito al numero verde 800 132 870, e poi ci sono dei conti correnti. Naturalmente vi consiglio, per eventualmente utilizzare questa modalità, di andare sul sito www.agire.it. Canzonieri, si fermi lì, perché adesso sento anche la Caritas Ambrosiana, il vice direttore Luciano Gualzetti. Gualzetti, buongiorno. Buongiorno. Allora, 2 giorni fa, subito dopo la tragedia haitiana, non appena ne abbiamo avuto comunicazione, a Milano è stata organizzata un'immediata conferenza stampa dal sindaco Moratti e dal cardinale appunto Tettamanzi. La Caritas ha già stanziato praticamente, attraverso 2 modalità differenti, 200.000 euro per sostenere la popolazione haitiana. Ci racconta cosa avete fatto e come vi si può, anche in questo caso, anche per voi aiutarvi. Noi siamo appunto la Caritas Ambrosiana, che fa parte della Caritas Italiana e quindi di un network internazionale, Caritas Internationalis, che appoggia e opera con e tramite la Caritas Haitiana. Fortunatamente ieri siamo riusciti a metterci in contatto col direttore di Caritas Haiti, che ha rassicurato che tutte gli operatori di Caritas non erano rintracciabili perché erano già sul posto ed erano operativi per fare le visite nella capitale e rilevare i primi bisogni, che sono cibo, acqua, tende, prodotti igienici, che tra l'altro sono già stati messi a disposizione perché i magazzini di Caritas haitiana, quelli del nord e quelli del sud, che non sono stati colpiti così duramente come nella capitale, avevano a disposizione appunto dei beni che sono già stati distribuiti. Anche Caritas statunitense è presente con dei siti e con delle sedi proprie, e quindi attraverso questo network di Caritas che fa riferimento alla Caritas haitiana, noi operiamo. In Italia la Caritas italiana ha messo a disposizione subito 100.000 euro, altri 100.000 euro abbiamo messo a disposizione noi della diocesi di Milano, altre diocesi stanno facendo la raccolta. Ricordo che anche la CEI ha messo a disposizione 2 milioni di euro, l'ha comunicato ieri, e ha invitato tutte le chiese d'Italia a fare una raccolta straordinaria fuori dalle chiese il 24 gennaio. Benissimo. Quindi, innanzitutto noi raccoglieremo fondi attraverso questi nostri canali per poi aiutare la Caritas haitiana, che è già operativa ed è già presente sul posto appunto con operatori locali che sono ormai, ahimè, abituati a gestire le emergenze. Queste tragedie, ricordo che solo nel 2008 ci sono stati gli uragani, nel 2006 l'alluvione, e questa modalità di aiuto diretto, anche sostenuto dalle Caritas europee e quella italiana, è ampiamente collaudato e consolidato. Gualsetti, io devo ringraziarvi e salutarvi perché ho già sforato anche il tempo a mia disposizione. Abbiamo voluto anche la Caritas e per ricordare appunto l'appuntamento con la raccolta diretta di denaro, perché molto spesso ci sono anche delle persone anziane che non sanno utilizzare il canale di internet piuttosto che i numeri verde per poter fare le loro donazioni, allora possono andare in parrocchia, a messa, e poter utilizzare eventualmente questa modalità per sostenere in questo caso quest'anno la tragedia di Haiti. Alessandro, eccoci qua. Scusami, eccoci alle 12. Commissione Massimo Scoperto, il punto della situazione. Ciao. Ben ritrovati da Alessandro Milan. E allora le notizie in primo piano: sono 3 milioni gli sfollati ad Haiti, ma c'è ancora incertezza sulle vittime. La Croce Rossa Internazionale parla di 55.000 morti, ma la conta è ancora impossibile. Mancano all'appello anche decine di italiani, anche se oggi il Messaggero racconta la storia di Gigliola Martino, 70 anni, estratta dalle macerie ma morta poco dopo in ospedale. Potrebbe essere la prima vittima accertata italiana. Il presidente americano Obama tassa le banche, i bonus dei banchieri sono osceni, ha detto, e chiede indietro 117 miliardi di dollari nei prossimi 12 anni. Ne parlerà Oscar Giannino dalle 9. La comunità ebraica è divisa sulla visita del Papa alla sinagoga prevista domenica. Il capo dell'Assemblea Rabbinica Italiana, Giuseppe Laras, non ci sarà. Sotto accusa, tra le altre cose, sempre il processo di beatificazione di Pio XII e i presunti silenzi di Papa Pacelli durante la Shoah. Infine, per il calcio, conclusi gli ottavi di Coppa Italia, passano ai quarti la Lazio, 2-0 sul Palermo, la Fiorentina, 3-2 sul Chievo, e l'Udinese, 2-0 sul Lumezzane. Allora, alle 8:34 minuti parliamo di Craxi nel nostro sondaggio di oggi. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero, il sondaggio di Radio 24. Sapete, ci piacciono le posizioni bianche o nere, così, in un pacato confronto. Partiamo da quello che ha detto il direttore del TG1 un paio di giorni fa, Augusto Minzolini. Ha fatto un editoriale, ha parlato di Craxi, ha detto questo. È arrivato il momento di guardare la sua vicenda con gli occhi della storia. La verità è che ad un problema politico fu data una soluzione giudiziaria. E l'unico che ebbe il coraggio di porre in questi termini la questione, cioè Craxi, fu spedito alla ghigliottina. Per questo Craxi non volle mai vestire i panni dell'imputato. È di quegli anni il vulnus che alterò l'equilibrio nel rapporto tra politica e magistratura. Un vulnus che per quasi un ventennio ha fatto cadere governi per inchieste che spesso non hanno portato da nessuna parte e che ha lanciato nell'agone politico i magistrati che ne erano stati protagonisti e già per questo avrebbero dovuto dimostrare di non essere di parte. Ecco perché non ha bisogno di nessuna riabilitazione l'uomo che, accettando coraggiosamente tra socialista e riformista gli euromissili, contribuì insieme a Reagan e a Papa Wojtyła a mettere in crisi l'URSS, che disse di no agli americani nella crisi di Sigonella e affrontò il referendum sulla scala mobile. Il destino di Craxi, la sua carriera fatta di luci e di ombre, è comune a molti dei grandi personaggi di quel periodo complesso. Ma per la storia Craxi va già ricordato oggi come uno statista. Allora, fu uno statista e fu mandato alla ghigliottina. Questi due aspetti pregnanti, a mio modo di vedere, dell'editoriale di Minzolini, di cui vogliamo parlare. D'altronde è così, quando si parla di Craxi ci si divide. È morto da latitante? No, è morto in esilio. Fu uno statista? No, fu un politico corrotto. Io voglio chiedere innanzitutto a Gianni De Michelis, che saluto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Ascoltatori. Innanzitutto le chiedo, ma lei andrà da Mamet? Perché certo, ovviamente ci andrò, ci sono già stato in questi anni, ci tornerò in modo particolare domani per essere lì domenica nel momento della commemorazione del decennale della morte di Bettino. Allora, che immagino sia d'accordo con l'analisi di storica di Minzolini? Sì, certo, sono d'accordo, è ovvio, sono da allora, dai tempi di Mani Pulite, non c'è il minimo dubbio, a prescindere dalle valutazioni dei singoli episodi, che la ragione principale della questione giudiziaria, che della tempesta giudiziaria che si abbatté su Craxi e sui socialisti, fu una ragione politica, e appunto la politica andrebbe risolta in sede politica e non in sede giudiziaria. Però che ne pensa? Io intanto voglio salutare anche Gianni Barbacetto, che la sta ascoltando. Oggi Gianni Barbacetto ne scrive sul Fatto. Buongiorno, ben ritrovato Barbacetto. Buongiorno. Autore anche di vari libri, Mani Sporche con Gomez e Travaglio, ma ha scritto anche libri su Mani Pulite prima. Un po' introvabile, devo dire, Barbacetto, io li cerco. Esaurito. Ho capito. Arriverà la nuova edizione. Ah, vabbè, ecco, ci dà una notizia. De Michelis, io vorrei partire da quello che Luigi Ferrarella ha scritto qualche giorno fa sul Corriere della Sera. A dire, è un paese un po' strano l'Italia, io lo riassumo così, cioè quando c'è un avviso di garanzia tutti a gridare al delinquente e poi gli altri dicono no, aspetta, facciamo che la giustizia faccia il suo corso, poi quando la giustizia fa il suo corso ci sono le condanne, a volte si ribalta e dice però c'è, erano inchieste politicamente indirizzate eccetera, cioè la coerenza poco c'è. De Michelis, è vero, non si può ridurre alla fedina penale di un uomo politico la lettura storica, però alcune sentenze ci sono state, per esempio, di condanna nei confronti di Craxi. E per quello, se vogliamo entrare in una disquisizione di carattere giuridico, che a dire il vero a me interessa molto poco, perché io vorrei che nell'interesse del paese, nell'interesse di tutti, di quelli che erano per Craxi, di quelli che erano contro Craxi, di queste cose discutessimo guardando avanti, guardando per il futuro e, come si può dire, capendo finalmente che abbiamo buttato via buona parte di questi 15-20 anni, che i problemi del paese sono aumentati e che probabilmente capiremo tra un po' che bisogna ripartire da dove Craxi ha lasciato un compito incompiuto. Però se vogliamo però tornare alle questioni giudiziarie, posso dirle solo questo, senza entrare nel merito delle singole condanne e così via, che vede nel corso della seconda metà degli anni 90 noi abbiamo cambiato, noi, la nuova classe politica, la Seconda Repubblica, tra l'altro in un periodo in cui governava il cosiddetto centrosinistra, abbiamo cambiato la Costituzione proprio sui temi della giustizia, abbiamo introdotto delle nuove norme che furono chiamate allora, se lei va sulla stampa la trova, norme per un giusto processo, e queste erano connesse al fatto che noi subimmo parecchie condanne in sede europea dalla Corte Europea di Giustizia, e due di queste condanne riguardavano proprio i due processi e le due condanne di Craxi, proprio riguardante il fatto che la Corte Europea di Giustizia ha accolse i motivi della famiglia Craxi che ricorreva contro questi reati, dicendo che Craxi non aveva avuto un processo giusto perché non era mancata la possibilità di poter controinterrogare i testi che lo accusavano in aula durante il dibattimento. Dopodiché questo oggi non è più possibile. In realtà questo significa che se gli stessi del centro-sinistra hanno cambiato la Costituzione, non una legge, per dire creiamo delle norme per un giusto processo, nel periodo in cui Craxi fu condannato i processi non erano tra virgolette giusti. Allora vorrei andare da Gianni Barbacetto. Come detto oggi sul Fatto, scrive: Bettino l'esiliato e quei lingotti svizzeri. Chiedo, la lettura attraverso la fedina penale di un uomo politico è l'unica lettura possibile o è la lettura preminente per leggere la storia di Craxi, Barbacetto? Assolutamente no. Noi possiamo, dobbiamo distinguere e dobbiamo fare due tipi di ragionamenti diversi. Un ragionamento è sulle azioni politiche di Craxi, possiamo discutere e possiamo dividerci sul fatto se Craxi si sia comportato da statista o meno. Questo però non può essere l'unica metro di giudizio. Esiste anche in un paese civile il rispetto delle leggi, e siccome non esiste quello che ha detto Gianni De Michelis ora, che ha dato una notizia semplicemente falsa, cioè non c'è stata nessuna condanna della Corte Europea in merito ai processi di Craxi, che anzi la Corte Europea in un caso, nel caso Liberian, ha dato addirittura torto alla famiglia Craxi, sostenendo che la giustizia italiana ha giustamente proceduto. Quindi proprio certo, se si cerca di discutere falsificando i fatti, non si va lontano. Allora, che cosa è successo? De Michelis, che peraltro è complice di Craxi nei suoi reati e quindi è chiaro che lo difende, dice non c'è stata una questione giudiziaria, c'è stata una questione politica. Ora, questo va tutto dimostrato, quello che è emerso e che gli italiani hanno visto con grande chiarezza nel 1992-1993, oggi lo vedono un po' meno perché c'è una disinformazione costante fatta a dosi massicce di editoriali alla Minzolini che impedisce di vedere la verità e la realtà, ma allora gli italiani, che erano meglio informati di oggi, lo vedevano, semplicemente una cosa molto molto molto semplice. Alcune persone che commettevano reati, i magistrati che li scoprivano e procedevano, facevano delle indagini, gli imputati per lo più ammettevano i reati commessi, i tribunali giudicavano ed emettevano condanne. Questo non sempre condanne, a volte ci sono state anche prescrizioni. Nel caso di Mani Pulite, malgrado la disinformazione che anche qui è stata fatta, una percentuale altissima di condanne, ma molto semplice, ma per un motivo molto semplice, perché la maggioranza degli indagati di Mani Pulite ammetteva, perché il clima era diverso, ammetteva, lo stesso Craxi ha ammesso, ho avuto finanziamenti illegittimi della politica. Però lo stesso Craxi lo ammise anche, voglio dire, in Parlamento. Io tra l'altro voglio anche far ascoltare a questo proposito quello che insomma un po' tutti, perché è un passaggio storico, no, della Prima Repubblica, quello che dibattito sulla fiducia al governo Amato, eravamo nel luglio del 92 e Bettino Craxi fece questo discorso in Parlamento, la cosiddetta prima chiamata di correità del Parlamento. Sentiamo che cosa disse Craxi riguardo al finanziamento dei partiti. I partiti, specie quelli che contano su apparati grandi, medi o piccoli, giornali, attività propagandistiche, promozionali ed associative, e con essi molte varie strutture politiche e operative, hanno ricorso e ricorrono all'uso di risorse aggiuntive in forma irregolare o illegale. Ma non credo che ci sia nessuno in quest'Aula. Non credo che ci sia nessuno in quest'Aula responsabile politico di organizzazioni importanti che possa alzarsi e pronunciare un giuramento in senso contrario a quanto affermo, perché presto o tardi i fatti si incaricherebbero di dichiararlo spergiuro. Allora, Craxi si alzò e disse, allora è stata tradotta così De Michelis da tutti, siccome qua dentro nessuno in quest'aula può dire che non ci sia finanziamento irregolare dei partiti, per tutti. E questo però politicamente cosa vuol dire? Voglio dire che siccome rubiamo tutto... voglio dire a Barbacetto che io sono stato complice di Craxi, è vero, complice di Craxi, di reati che riguardavano il finanziamento illecito dei partiti, che appunto Craxi, con largo anticipo sui giudici e sulle sentenze, sollevò il problema nella sede propria, nell'aula del Parlamento, e naturalmente tutti tacquero in modo assoluto. Però perché dice la sede propria? Come dire, andava risolta lì? Era un reato. Facciamo tutto in pillole naturalmente, poi entriamo in discussioni che non fanno capire più niente a nessuno. Questa era la situazione peculiare dell'Italia, che durò per 45 anni come conseguenza della fine della guerra mondiale, degli equilibri di Yalta e così via. E tra l'altro, come tutti sappiamo perché è documentato per tabulas, il reato maggiore lo commise ovviamente il Partito Comunista Italiano, che aggiunse al reato di finanziamento illecito anche il reato che questi finanziamenti in parte o in buona parte provenivano dall'Unione Sovietica, nel contesto della politica internazionale di allora. Ma questo qui fu risolto nell'89 con un'amnistia. In realtà le cose continuarono per tutti anche dopo, fino praticamente a quando non esplose mani pulite. Il problema è, ciascuno di noi ha pagato, come si può dire, le sue colpe, sì, e si è accollato le sue sentenze per il finanziamento illecito, per quello che avevamo ammesso. Il problema è che per taluno è avvenuto così e per tal'altro i giudici, come si può dire, hanno chiuso questa, un occhio. Questa però, io devo andare a dare il traffico, poi rientriamo da questo. Questa è la difesa, come dire, il famoso idea del capro espiatorio, no? Colpito uno, o come dice Minzolini, mandato lui alla ghigliottina per risolvere un problema politico. Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. C'è da dire che votando su radio24.it e sole24.com il 77%, dunque una maggioranza di ascoltatori, non si dice d'accordo con la lettura storica di Minzolini, che ha detto sostanzialmente fu uno statista, fu mandato alla ghigliottina. Vediamo Gabriele da Rimini, che ne pensa? Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno anche ai telespettatori. Dunque, volevo appunto dire a De Michelis che qui non stiamo facendo la guerra a chi ha sbagliato di più, non stiamo cercando il partito che ha sbagliato di più. Voi quando diventate ministri, quando diventate persone che governano noi del popolo, decidete di rispettare le leggi dello Stato, e le leggi dello Stato prevedono che questo qui sia un reato, e se voi lo fate è giusto che veniate puniti, cioè che chi lo faccia venga punito, perché voi chiedete a noi cittadini di rispettarle le regole, sì, e allo stesso modo dovete farlo voi. Se ci sono delle regole che voi conoscete nel momento in cui giurate, quindi lei dice è una questione molto semplice: sono reati, vanno puniti, punto. Insomma, il discorso è finito. Loro lo sanno perché hanno giurato sulla Costituzione, o hanno giurato sulla giustizia. Insomma, è molto più grave che un vigile urbano parcheggi in doppia fila. E non è detto che siccome il reato lo fanno tutti, allora tutti parcheggiano in doppia fila, allora depenalizziamo il reato. Va bene, questo vabbè, infatti ci fu anche la questione del famoso decreto per depenalizzare il finanziamento ai partiti. Scalfaro non firmò, insomma, cadde il governo Amato. Ma questa è storia. Grazie, Gabriele. Voglio andare a Brescia da Luigi. Buongiorno. Oh. Dica. Allora, ho sentito prima l'intervento di Craxi, a parte l'ho già sentito tanti anni fa, che ha fatto in Parlamento. È storico. Io concordo in pieno al 100% di quello che ha detto Craxi, per un semplice motivo. Io ho 67 anni, sono stato un vecchio militante della Democrazia Cristiana. Io mi ricordo che fino agli anni 90, quando è scoppiato Tangentopoli, tutti i partiti, non solo uno, dalla Democrazia Cristiana ai socialisti, socialdemocratici, repubblicani, tutti i partiti che erano al governo allora, per far stare in piedi tutti i circoli delle città, i circoli dei paesi, sì, c'erano questi finanziamenti, che non dico che erano finanziamenti illegali, erano finanziamenti che chi aveva la disponibilità aiutava il proprio partito per stare in piedi. Questo era il progetto di allora. Dopo, che fosse una cosa legale o non legale, stava al Parlamento modificata la legge, non fare tutti questi. Beh, forse anche ai giudici verificarlo, no? Ecco, ai giudici, certo, anche ai giudici verificarlo, però le posso. Qualsiasi persona, io ripeto, che ha la mia età, che ha militato in politica come militante, lo sapevo. Sa che è così. Allora, su questo, grazie Luigi. Barbacetto, vorrei puntare anche quello che ha detto De Michelis: si è colpito il PSI, ma si sapeva che era il PC quello che per De Michelis, diciamo, prendeva più finanziamenti illegali. È un po' il teorema del dire, la chiamata è correità di Bettino Craxi in Parlamento, come si replica a questo punto? Come dire, lo facevano tutti. Ma prima c'è ancora un punto però che va chiarito, perché sia Craxi nel suo intervento in Parlamento allora, sia De Michelis oggi, ammettono il finanziamento illecito, ma fanno finta di dimenticarsi la cosa più importante e più grave, la corruzione. Cioè, le condanne che hanno avuto sia Bettino Craxi che Gianni De Michelis non sono state soltanto per finanziamento illecito, sono state anche per corruzione, che è ben più grave, che è un'altra cosa, e cioè Craxi aveva, oggi il mio articolo sul Fatto Quotidiano racconta le decine di conti all'estero non riferibili al partito, ma riferibili all'uomo Bettino Craxi, che gestiva un tesoretto di parecchi miliardi di lire in giro per i paradisi fiscali di tutto il mondo. Una parte di questo ancora non è stato trovato, chissà dov'è, chissà chi ce l'ha. E soprattutto la corruzione che cosa voleva dire? Voleva dire vendere gli appalti in cambio di soldi, vuol dire che la metropolitana milanese è costata a Milano il triplo di quello che costava la metropolitana in qualunque paese civile del mondo, vuol dire che lo stadio di San Siro, terzo anello, è durato, la costruzione del terzo anello dello stadio di San Siro è durato 4 volte il tempo in cui è durato la costruzione dello stadio di Francoforte o di un altro paese europeo. Perché? Perché ci si mangiava. Voleva dire che in Italia si sono fatte opere inutili perché l'importante non era fare opere, ma era mettere in moto una macchina di costruzioni e di appalti da cui i partiti lucravano soldi e denaro, che non soltanto finanziavano le attività dei partiti in maniera illegale, reato, e quindi reato che i magistrati devono perseguire, ma finanziava la vita principesca di alcuni personaggi politici. Gianni De Michelis, come dire, sì, è l'icona di questo, no? C'è una sentenza che lui conosce bene, perché è una sentenza che lo condanna e che parla di vita principesca di Gianni De Michelis, che addirittura ha lasciato in soli extra in un hotel dove lui soggiornava a Roma non so quanti milioni di debiti. Ecco, allora c'era una corruzione, sì, profonda, una corruzione profonda, una malattia profonda della politica. I magistrati nel 92-93 per un caso raro, cioè perché era caduto il muro di Berlino, perché non c'erano più soldi, perché il PIL, perché la crisi economica in Italia stava portando l'Italia ad una situazione argentina, non c'erano più soldi, ma gli imprenditori hanno per la prima volta collaborato, hanno raccontato, perché non ne potevano più di essere taglieggiati dalla politica. Ecco, per la prima volta, e soltanto per quei 2-3 anni lì, si è aperta una finestra e i magistrati sono riusciti a fare il loro dovere, e cioè prendere i ladri. Tutto iniziò da questo Luca Magni, che insomma la famosa mazzetta a Mario Chiesa. Non so, De Michelis, io non la vorrei mettere sul personale, non so se vuole replicare la questione di Barbacetto. Sono 20 anni che sento queste cose e così via, e lasciamo stare. No, sulla questione interessante, visto che tra l'altro ci dimentichiamo, perché l'inizio era nata una questione tra la politica e la giustizia in, sì, Italia, che sì, ovviamente è un vulnus, che tra l'altro è continuato in questi 20 anni, non più contro i socialisti, contro Craxi, che noi ci avevano fatto fuori allora, guarda caso adesso contro Berlusconi, contro diciamo così un'altra forza politica che oggi va per la maggiore. Vediamo, allora mi faccia dare prima un ascoltatore, poi torno da lei, Mario da Bologna, perché lì da un po'. Mario, che dice? No, io dico che, guardi, io ho telefonato perché non volevo credere alle mie orecchie quando sento un De Michelis dire a prescindere dai fatti. Ma come si fa a prescindere dai fatti? Ma non possiamo prescindere dai fatti, i fatti sono quelli, corruzione, ladrocinio, perché se noi prescindiamo dai fatti, allora qualsiasi politico può fare qualsiasi cosa, perché tanto prescindendo dai fatti, cioè le sentenze, quindi lei dice, scherzando. Le chiedo, Mario, lei dice le sentenze sono quelle, e le sentenze fanno la storia di una persona, la storia anche politica, la storia del profilo di un uomo? C'è la memoria corta, perché se ragioniamo con questa mentalità, allora si può riabilitare chiunque, chiunque riabilitiamo, anche Hitler riabilitiamo, è un problema politico, a prescindere dai fatti che abbia ammazzato 6 milioni di persone, probabilmente era solo un problema politico. Adesso non esageriamo. Non era un confronto. Per chiarità, insomma, non voglio neanche pensarlo. Mario, grazie. De Michelis, allora siamo in conclusione, è questa, il sentore di molte persone è questo, ma come, di fronte a delle sentenze di condanna, come si può fare altri discorsi o prescindendo dalle sentenze di condanna? De Michelis. Non dico di no, ovviamente è una questione delicata, ripeto, il mio auspicio è che si guardi in avanti. Grazie e arrivederci. Va bene, ci fermiamo, grazie, grazie. Ha messo giù. Barbacetto, finiamo qua. No, dopodiché appunto si può fare un ragionamento anche sulla figura politica di Craxi. Per esempio, Craxi aveva uno stile di vita sobrio, a differenza per esempio di De Michelis, che no, vabbè, no, ma non ricominciamo, no, no, no, per dire, no, no, no, no, ma, no, ma anche qui per amore dei fatti, non perché per infierire, va bene, no, cioè aveva uno stile di vita sobrio, no, anche perché non, aveva, c'è, non c'è più, poi un'altra, devo un'altra chiudere, caratteristica che lo distingueva sia da, da altri politici allora, non facciamo noi, sia da politici oggi, e cioè la preminenza della politica, cioè Craxi pensava che la politica fosse la cosa più importante e che sì, la corruzione fosse al servizio della politica, sì, mentre oggi viene il sospetto che molti usino la politica per fare affari. Ci dobbiamo fermare, grazie anche a Gianni Barbacetto, Gianni De Michelis, Laura Marchesi in redazione, con Peter Bescapè in regia. E allora ci fermiamo qui col sondaggio di oggi, votate su radio24.it o il sole24.com, ci troviamo lunedì mattina.